Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, ben arrivati, ben ritrovati sui 103 e 100 in modulazioni di frequenza. Le frequenze sono quelle giuste. Radio Città Fujiko, in compagnia di Franco Paoletti, che vi sta parlando al di là del vetro, ovviamente, il nostro indispensabile, oserei dire, bolognese volante. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori, nonché le ascoltatrici. Perfetto, ha completato il suo pensiero. Benissimo. Non era un grande pensiero. No, va bene. Però vogliamo ricordare a tutti il 333-180-94-94. I vostri short message sono sempre ben graditi e ovviamente la nostra redazione sarà interessata e replicherà al tutto. Che dire, che ne abbiamo tanta musica al fuoco anche questa settimana, quindi vediamo di andare veloci, veloci, veloci, perché insomma qua si corre sempre. Quindi quando si parla di musica, il tempo puff vola. Allora, oggi musica indipendente, vedo diverse uscite discografiche, alcune molto interessanti, quindi vi consiglierei di non staccarvi da queste frequenze. Poi salutiamo anche coloro che ci seguono ovviamente con i nostri, con i social, anzi il nostro podcast, giusto? Dico esattamente. Dopo salutiamo chi ci ascolta in streaming, ovvero streaming tramite podcast, giusto? Esatto. Io confondo sempre lucciole per lanterne, ma ormai mi conoscete come sono. Facciamo quindi un piccolo abbecedario. C'è il sito della radio www.radiocittafujiko.it, dove si può ascoltare la radio in diretta anche a Londra, in Argentina, in Australia. Arriviamo ovunque. Poi c'è l'FM, sia lo streaming che l'FM sono in diretta. Poi c'è la differita sui social, sul podcast, su Facebook, eccetera, eccetera. Chiaro ed efficace come sempre nel chiarirci le idee. Io direi di invece ascoltare il primo personaggio che abbiamo pescato. La nostra redazione si è concentrata su tal Potacci con questa selezione musicale che si intitola Il Bell'Addio, e poi vi parlo di lui. Tutto è pronto, tutto sta al posto suo. Tu qui entri e chiedi che giorno è. Dico il 10 agosto e che ora fai? Le 6. Siamo sul velluto, su dei vassoi. Siamo in una botta orologeria. Il calore stringe, si fa scorsoio. C'è una luce obliqua che ci rasoia. Questo sei un addio, come dico io. Guarda amarsi niente se poi cos'è. Cos'è lasciarsi, darsi allo sciupio? È tutto pronto al posto suo. Piange amaramente allo specchio tuo. Mentre mi smarrisco, un poco io. Senza capo, senza scodinzolio. Mentre mi cucino nel brodo mio. L'otto in punto tu prendi e te ne vai. Ci lasci il cuore. Non è un fanale, ritornerai. Tutti ai nostri posti, che si fa? Siamo al trionfo, questo è un bis. La sera estiva, fresca e viva, in platea. Non toccare basso, un'odissea. Verso un gran lasciarsi, un bel addio. Fatto quattro numeri di esteria. Dalla testa al muro se vuoi. Lunga è la pianura, il corridoio. Sfuria la nervosa cavalleria. Sfrena la tua fusa tifoseria. L'apoteosi insonne. Potacci, il bel addio. Beh, un inizio bello brioso, Paoletti? Molto. E pensare che si è dato un po' all'elettronica. Potacci, un eclettico cantante, cantautore italiano che nella sua lunga carriera artistica si è fatto conoscere sotto vari pseudonimi e poi ha deciso di trasferirsi dal 2008, se non sbaglio, in Spagna, e lì ha deciso di tornare alla vita artistica perché lui scriveva, no? Soprattutto anche per altri personaggi, per altre persone. Tra i tanti addirittura ha recuperato un brano di Lucio Battisti e di Pasquale Pannella che doveva essere inserito poi nell'album Don Giovanni, invece lui lo ha reinterpretato e insomma inserito nel suo album. Ovviamente il suono è elettropop, influenze hyperpop, piace, no, questa leggerezza. Lui è molto famoso in Spagna, per esempio, perché è stato saccheggiato anche per delle colonne sonore, se non sbaglio, e quindi insomma lavora più in Spagna che in Italia, però insomma anche in Italia si è fatto ben conoscere. Complimenti a Potacci, che noi lo conosciamo così, ma in realtà ha anche vari pseudonimi in Italia e quindi lavora per altre persone, personaggi. E a questo punto direi di passare invece a Bea Baleari, che ci presenta Come l'acqua sulla luna. Ok, ce l'ascoltiamo. Fortuna, se lo vuoi succederà, come l'acqua sulla luna, prima o poi si troverà. Se il destino non esiste, dimmi che importanza ha, senza andare sulla luna, la fortuna metti qua. Con un poco di fortuna, se lo vuoi succederà, come l'acqua sulla luna, prima o poi si troverà. Se il destino non esiste, dimmi che importanza ha, senza andare sulla luna, la fortuna metti qua. Se l'esasperazione del poligono, senza uno spigolo, luna e venere in trigono, come ti desidero. Traiettorie ipotenuse ottimizzano il tempo e lo spazio, mi dici che strazio. Stelle, comete ci cadono addosso, tu sei felice, io resto al mio posto. Sogni futuri, solo per gioco, scintillano gli occhi, ci basta poco. Con un poco di fortuna, se lo vuoi succederà, come l'acqua sulla luna, prima o poi si troverà. Se il destino non esiste, dimmi che importanza ha, senza andare sulla luna, la fortuna metti qua. Con un poco di fortuna, se lo vuoi succederà, come l'acqua sulla luna, prima o poi si troverà. Se il destino non esiste, dimmi che importanza ha, senza andare sulla luna, la fortuna metti qua. Se fossi Plutone, che disperazione, ma non ti crociare, ho un sistema solare che ci invidieranno tutti, per i belli e per i brutti, e poi già che ci siamo ce lo miglioriamo. Con bassi ripiani. Bea Baleari con la sua Come l'acqua sulla luna. Su questo brano saluto subito Ricky da Palermo. Allora mi accodo anch'io ai saluti e buon pomeriggio anche a te in quel di Palermo. Chissà che succede, se piove, insomma non è dato a sapere. Allora, speriamoci sia il sole, di cui abbiamo tutti tanta voglia. Abbiamo voglia di sole in questo momento, sicuro. Allora, Bea Baleari in realtà è un duo musicale che nasce nel 2021 dall'unione artistica della cantautrice Diana Teiera e dell'autrice Beatrice Tommasetti, che praticamente si occupa di testi soprattutto, mette nella parte artistica musicale la stessa invece Diana Teiera. Non sono nuove alla musica, perché insomma il loro synth spaziale insomma ha già girato nelle onde FM, come si suol dire, con alcuni singoli. Questo è il loro nuovo singolo, appunto, che promette molto bene, anche molto estivo, molto scivolo. scivola, scivola molto bene, scivola come l'acqua. Vado così a citare, vado a citazione. Bene, la prossima invece è un personaggio, si fa chiamare Pneumo e ci presenta Poeti Tristi. Ascoltiamola. Vorrei partire per non ritornare, lasciare scritto e non mi disturbare. Solite pare, solito fare, di testa mia senza mai frenare. Come un treno senza meta, come una cometa che viaggia alla cieca. E più penso al domani, e più mi uccide l'attesa. Lezioni di vita che mi rimandano in prima, non l'ho mai capita per viverla. Entrare il fumo nel mio corpo, ogni respiro si fa un po' più corto. Quell'orologio che gira vuoto, io l'ho fermato fissandolo troppo. La volontà si fa pigrizia, la noia ne approfitta, mi sento immondizia. E forse ho fallito sotto ogni punto di vista. Vorrei amare, ma per tutto quel che vale non è fondamentale per camminare. Sto pensando che questo non è il posto giusto. Non rido di gusto più, ma che male c'è. Dentro quattro mura, sto bene solo nel mio Pneumo, poemi tristi. Ma perché questi poemi devono poi essere sempre tristi, Paoletti? Ma chissà. Non è dato a sapere, comunque. Lui è praticamente un cantautore milanese, Fabio Romano, e si chiama così nella vita di tutti i giorni, in arte appunto Pneumo. Un brano che mette in risalto sicuramente il disagio che l'autore riscontra con il mondo esterno. Non è nuovo a uscite discografiche, perché insomma lui ha già inciso, se non sbaglio nel 2021, il suo primo EP, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dove appunto si è messo in luce nell'FM nazionale, e questo è il suo graditissimo ritorno alla musica. Devo dire, insomma, ci sa fare anche nella composizione. Complimenti a Pneumo. Certo che con un nome così non passa certo inosservato. Mi astengo dai commenti dei nomi, che sono, come lei ben sa, molto originali. Molto originali, molto particolari, a volte difficili e sono proprio complicati, ma andiamo avanti. Cosa incerti anche. E a questo punto ne arriva un altro, si fa chiamare Urbania, ci ascoltiamo Dopo l'autunno. Urbania. Partire per sempre, tipo lo faccio uno scherzo. Alice che il mondo lo guarda con gli occhi di un cieco. Lo pensavano tutti, lo capivano tutti. Partire per sempre col sole a Cuba, la tua pelle nel mare si spella tutta. Volevi avere solo un po' di pace, riposare il cervello tipo d'estate. Come quando alle medie sentivi gli uccelli cantare, affacciata sul bordo della finestra. Pensavi di stare in un'astronave, dall'alto del cielo dicevi scusa a tutti gli amici che avevi intorno. Poi la professoressa si è messa a gridare, perché in tutto questo non stavi al posto. Nessuno ti vede, pensavi di no. La doccia bollente che ti consola. Piangevi dopo il lavoro, ricordo di quando piangevi, ma dopo scuola. È arrivato il diploma e dopo l'autunno è arrivato il momento di chiedere aiuto. Un fulmine in cielo non è caduto, quando avevi bisogno non c'era nessuno. Qualcosa è cambiato dopo di te. Quello che faccio non sa di nulla. Vedi cosa mi hai fatto, ma eri un'adulta. E tutto ti aveva già delusa, e tutto ti aveva già distrutta. Qualcosa è cambiato dopo di te. Io quello che faccio non sa di nulla. Tu pensavi lo stesso prima di me. Prima di noi, prima di tutto. Prima di avere in testa il tuo nome per sempre. Diavolo, portami via. portami ovunque, pure in un posto qualunque. Diavolo, portami via. Diavolo, portami via. E bruci come un albero maledetto. Entri nei miei incubi, portami negli inferi. Rami che bussavano sul mio tetto. Spezzato poi di botto, di sogni così vividi, scrivili. Dicevi fidati, buttati, poi sei sparita. Ricordami cosa di male c'è nel male, o cosa di bene c'è nel bene. Nessuno ti vede, le cuffie di notte, la frangia sugli occhi, ti senti sola. Ridevi dopo l'amore, ricordo di quando ridevi per ogni cosa. È arrivata l'estate dopo l'autunno, è arrivato ancora un momento brutto. Il fulmine in cielo non è caduto, perché avrebbe spaccato tutto. Qualcosa è cambiato dopo di te, quello che faccio non sa di nulla, vedi cosa mi hai fatto. Urbania, dopo l'autunno. Beh, fino a ieri in effetti sembrava l'autunno, anche se questa in realtà è la puntata numero 20 di domenica 21 maggio, Paoletti. Esattamente, siamo ancora con le maniche lunghe, il che è un pullover. Po', è un pullover anch'io, devo dire. No, la sciarpina no, perché comunque per proteggersi la gola basta oggi il colletto della camicia, però insomma chiuso ovviamente. E vabbè, è così, ci prendiamo quello che arriva ovviamente. Valerio e Sacco, appena 18 anni, fondano il gruppo degli Urbania, o Urbania, non lo so. Il contesto comunque quello della periferia romana, così ritenuta da molti poco raccomandabile. In realtà poi ci sono tutte queste influenze, questo humus, no, che si fa intenso, c'è, cioè, questi mescolamenti, e poi insomma nasce anche la creatività vera e propria. Allora, cosa è successo? Che loro si sono ritrovati intorno al 2019, fondano il loro gruppo e incidono il loro primo EP, e poi da lì insomma da cosa nasce cosa sono riusciti, poi pensi un po', a partecipare a praticamente una sorta di film omaggio alle riprese del film di Tommaso Paradiso, che si chiamava Sulle Nuvole. Tommaso Paradiso Sulle Nuvole, questo film così un po' iconico su sul gruppo insomma, che regionalisti, che poi si sono sciolti. Che dire, che di loro avevamo già parlato e ascoltati in un precedente singolo, questo è il loro nuovo Dopo l'autunno, che così ispirava la redazione, e devo dire che anche questa volta ci ha azzeccato, ok, il pollice alzato, come si suol dire. Cosa abbiamo sul piatto numero 2 a questo punto? L'uno vedo che è un abbiamo po'. Abbiamo Anna Luppi fase. Con. No, io sono sul pezzo, Paoletti. Sì, no, Anna dico... Luppi, Join Your Heart. Join your heart and come to me. Leave your steps and set me free. Wind, sky and energy. Love is rescue me. Join your heart and come to me. Leave your steps and set me free. Wind, sky and energy. Love is rescue me. Scivola la notte che sfuma verso il blu. Apri quella porta e poi non torniamo più. Torniamo più. Dopo il crepuscolo solo il pulviscolo resterà qui. È meglio così. Apri le braccia, c'è già chi ti aspetta e che sa come si fa. Diritto di tenerti qui, getta la maschera. Joy Your Heart, Anna Lupi con noi, e devo dire una canzone in inglese, però lei è di madrelingua italiana e spagnola, anzi vive proprio in Spagna. Una cantante, compositrice e flautista, nel corso della sua carriera ha suonato diverse volte su piccoli e grandi palchi, sia internazionali che meno, e vanta anche un premio Targa Tenco, quindi non è assolutamente male, più altri premi di composizioni ed altri. E poi ha lavorato anche per insomma diverse situazioni molto interessanti dello spettacolo, e che dire, che insomma ha un curriculum non da poco. Nel frattempo vi ricordo anche che lei appunto ha fatto anche dei duetti interessanti, vivendo un po' in Italia, un po' a Parigi, è diventata più conosciuta penso all'estero che in Italia. Infatti ho qui davanti a me, lei non ci crederà, tutto praticamente il suo così, la sua agenda di tournée, che vanta veramente date particolarissime, sia in Italia che all'estero. E quindi vi segnalo per esempio che da giugno in poi sarà proprio in giro sia in Italia che appunto in tutta Europa a presentare questo singolo, e ce n'è per veramente per tutti, perché la Spagna, la Francia, torna in Italia, poi in Germania, una densissima agenda appunto di appuntamenti molto molto interessanti. Buon per lei, perché insomma abbiamo avuto anche un periodo in cui la musica proprio non c'era, ce l'hanno tolta, e quindi non easy pop. Pensi che ha collaborato con importanti cantautori come Holden, come Elisa Erin, Domenico Imperato, che insomma sono tutti personaggi nuovi, emergenti della nuova musica italiana, che vanno sicuramente supportati, come va supportata anche Anna Lupi. Complimenti. Bando alle chiacchiere. Adesso abbiamo personaggio che è stato richiesto personalmente da lei, Paoletti. Sì, è un personaggio sicuramente in ascesa, l'ho visto già in classifica indie, insomma è già rientrato in classifica indie con il nuovo singolo, si intitola Arci. E chi è? Lui è Santoianni. Per ogni individuo che finge, qualcuno poi ci crede. Per ogni negozio che svende, c'è sempre un acquirente. Ho fatto la tessera Arci per conoscere gente, per togliermi finalmente l'aspetto esigente. Che uscite marci ed io sobrio come sempre, perché anche quando mi ripeto che va tutto bene, che sono sereno, invece mento, invece mento. Dov'è la soluzione a tutti quanti i miei problemi, la fine dell'inverno di questo sbattimento? Slancio per uscire per la strada, per fare delle storie questo fine settimana. Un altro fallimento al bar del circolo sociale sta per cominciare. Per ogni corsa contro il tempo c'è chi resta fermo. Sia bellissimo restare a guardare le stelle, sono così lontane da farmi stare male, male, male. Perché anche quando mi ripeto che va tutto bene, che sono sereno, invece mento, invece mento. Dov'è la soluzione a tutti quanti i miei problemi, la fine dell'inverno di questo spazio? molto piacevole anche questo nuovo singolo di Santoianni, Arci. Sì, che adesso Paoletti ci parla. No, non ha bisogno poi di grandi presentazioni. Santoianni, io direi invece di concentrarci sulla prossima, che è la prossima selezione, che è un gradito ritorno alla musica italiana di un personaggio che negli anni 80-90 ha sicuramente dato traccia e ha dato molto alla musica italiana. Stiamo parlando di Luca Madonia, che poi era uno dei membri ufficiali, insomma, di un gruppo storico dei De Novo. E quindi Luca Madonia, che si era poi staccato dal gruppo stesso, ha inciso diversi album molto molto interessanti, suoni etnici mediterranei, veramente un incanto. Noi ci ascoltiamo in questo caso un omaggio a Franco Battiato, che insomma ha collaborato proprio con Luca Madonia, del resto sono entrambi siciliani. È uscito questo singolo proprio omaggio a Franco Battiato, che è, insomma, visto che ricorre anche la scomparsa, insomma, di Franco Battiato in questi giorni. L'ascoltiamo con il singolo L'Alieno, che è estratto dal nuovo album Stiamo Tutti Ben Calmi. La la la la la. Vago per la strada in cerca di occasioni nuove, ma non mi basta mai quello che vedo. Passo tra gli odori e tra gli umori della gente che mi sfiora indifferente. Colgo l'occasione di un'estate al mare, dell'aria un po' confusa per colpa del calore. Io seguivo con lo sguardo l'onda sulla spiaggia, che arriva sempre uguale e tutto si ripete. E tu non mi basti più, io sono sola in questa vita. E forse come te mi sento. Io vivo nei panni di un alieno che non vola, che non mi assomiglia, ma io non mi riconosco. La la la la la. Ho speso la mia vita secondando le mie voglie, che spesso mi han tradito, volate come foglie. Ma il cuor non si comanda, e allora apriamo il nostro mondo, convinti che ogni storia si chiuda con un punto. E tu non mi basti più, io sono sola in questa vita. E forse come te mi sento. Io vivo nei panni di un alieno che non vola e non mi riconosco. Eccoci qua, quindi diciamo che il 18 maggio ricorreva la scomparsa di Franco Battiato, e qui c'è praticamente un omaggio a Franco Battiato con questo singolo, che è poi incluso appunto nel nuovo album di Luca Madonia, che ritorna finalmente alla musica. La stessa settimana abbiamo ascoltato il figlio invece di Luca Madonia, se non sbaglio. Complimenti quindi a entrambi. A questo punto piccolo break pubblicitario, rientriamo veramente fra pochissimo, quindi non andate via. Ancora tante novità Easy Pop. La fisioterapia è una cosa seria, necessita di attrezzature all'avanguardia e di professionisti con una grande passione per la vostra salute. Noi del Poliambulatorio Descovich lo sappiamo bene. Abbiamo un'esperienza di 60 anni e siamo stati i primi a Bologna ad occuparci di fisioterapia. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, traversa di via Lame, facilmente raggiungibili anche in autobus. 051 649 4501 o prenota comodamente online dal sito, saltando il centralino e a qualsiasi ora su www.descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich. Con il tuo 5 per 1000 puoi fare un gesto di grande sollievo Donalo alla Fondazione Hospice Ragnoli. Contribuirai al miglioramento della qualità della vita dei pazienti assistiti negli hospice della Fondazione, che diventa casa quando il paziente non può più restare a casa. La Fondazione Hospice, dal 2002, si impegna per migliorare la vita e alleviare le sofferenze dei pazienti con malattie in fase avanzata. Donare il 5 per 1000 è semplice. Basta firmare e indicare il codice fiscale della Fondazione Hospice. Maggiori informazioni sul sito fondhs.org. Farai insieme a noi un gesto di grande sollievo. Nella Bologna Mordi e Fuggi c'è un luogo diverso, dove trovi socialità, cultura, presentazione di libri, controinformazione, impegno e attenzione ai temi sociali, musica, teatro, poesia, ma anche buona cucina. È il centro sociale e culturale Villa Paradiso, in via Emilia Levante 138, fianco Osteria Vini d'Italia. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 20. Per info cerca Centro Sociale e Culturale Villa Paradiso su Facebook. Paradiso Jazz Festival, 15ª edizione, dal 27 marzo al 22 maggio, nella Sala Paradiso di Via Bellaria 7 a Bologna, il meglio della musica jazz nazionale e internazionale. Il 22 maggio, Kind of Bill, Gomez Moroni, La Barbera. Per info, arcisanlazzaro.it/festival/paradiso-jazz. Ma certo, adesso facciamo la passeggiata. Hai ragione, è l'ora delle coccole. A Bologna ci siamo noi di Dogbo e conosciamo bene le esigenze dei tuoi amici a quattro zampe. Dog e cat sitter, educazione, passeggiate, accudimento, visita a domicilio, asilo, corsi e stage, anche quando tu vai in vacanza. Maggiori info al 327-395-8183 o dogbo.it. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ed eccoci che rientriamo in studio dopo il break pubblicitario. Insieme a Franco Paoletti è il nostro indispensabile, ovviamente, Bolognese Volante. Oggi abbiamo avuto visite qui in radio. Sì, infatti non ho capito, ma ci abbandonava il nostro, il nostro Elio di passaggio di Fujiko on the Road. Il nostro collega è transitato anche lui, quindi oggi siamo in tanti, bello, proprio un party. No, mi è spiaciuto che sia andato via, perché insomma neanche i saluti, insomma impegni qua, sono tutti impegnati, non lo so. Lei non è impegnato? Io sono impegnato a impegnato però un saluto. Mi sarebbe, No, in diretta ovviamente ci fa immensamente piacere. Ricordiamo che Elio è presente in Fujiko on the Road il sabato pomeriggio, insomma, la sua trasmissione che è sempre utile, indispensabile e curiosa, perché insomma. Adesso poi parlano anche di cinema. Sì, infatti si è proprio allargata a 360 gradi nel mondo. Vips e non Vips, e poi ci sono colonne sonore, contatto. Lei Paoletti è sempre qui, fermo, non mi muovo. Musica indie. E invece rientriamo appunto alla musica, che poi è la musica italiana che è diventata indie perché l'hanno costretta un po', insomma, l'hanno un po', come dire, ingabbiata in questa incasellata in questa definizione, che poi non è neanche giusta, perché per esempio viene a trovarci un personaggio che sicuramente indie, sì, lo era forse i primi anni, però poi è diventato un protagonista della canzone italiana, e adesso sminuirlo un po' dicendo che è indie, non lo so. Ma le chiacchiere, di chi parliamo? Allora, parliamo invece, abbiamo parlato prima dei De Novo e di Luca Madonia, bene, l'alter ego, appunto, l'altro cantante dei De Novo, altri non era che Mario Venuti, quindi insomma un po' farbacco. Insomma, il gruppo c'era, poi si è sciolto da ognuno una sua carriera, una propria carriera, e poi li ritroviamo oggi separatamente, insieme separatamente prima e seconda insieme. Parte di Easy Pop. Vabbè, così è il bello della diretta. Facciamo partire il piatto, Paoletti. Ci ascoltiamo Mario Venuti qui con un featuring Luca Riello, Fabiana Martone e Nenei Santos ci presentano Napoli Bahia, il loro nuovo singolo. Salvador di Bahia mi ricorda molto Napoli. Stesso vivere la musica, poi credere ai miracoli. Samba e San Gennaro, tarantella dei tropici. Sopra queste vecchie case soffia il vento dell'America. E da queste rive non è poi così lontana l'Africa. Nero a metà, in sei oliscia tutto. Un eterno presente da vivere. Che musica mediterranea, proprio si sogna qui, un inno all'estate del singolo praticamente che anticipa il nuovo progetto discografico in uscita in autunno di Mario Venuti, è questo, questo singolo che poi è scritto insieme a Caballà, quindi un altro protagonista della musica italiana, mentre appunto diciamo c'è anche del rap, queste sonorità rap e anche questi suoni molto particolari etnici sono coadiuvati da Lucariello, che è un rapper appunto conosciuto nell'ambito siciliano, poi Fabiana Martone e appunto Nene Santos, che appunto ruotano anche intorno all'etichetta discografica Amico Crima. Bene, che dire, che appunto abbiamo ascoltato questo scorcio d'estate, ci è piaciuto moltissimo, tutto proveniente da dai dintorni della Sicilia, da Catania giù di lì. Beh, che dire, abbiamo chiamato Catania, da quelle parti lì c'è anche Giuseppe Cucè che ci presenta il suo nuovo singolo, si intitola Fragile Equilibrio, ascoltiamolo. Il suo destino al mago e alle sue carte che si dipingevano di rosso, quando i ricordi, quando i suoi mostri svanivano dalla sua mente, gridavano nella sua mente, fra coincidenze, tra presagi, fra regine e loro fanti, e dal suo sguardo si intuiva quell'anima ferita. L'orologio scandirà le ore della realtà, prendo respiro per non cedere a questo fragile equilibrio, per mostrarmi tra la gente, sento il respiro che fa vivere, e questo è il magico equilibrio. Il suo riflesso dipinto in uno specchio che si frantumava in mille pezzi, come guardarsi dentro il ritratto che brucia lentamente Dorian Gray. L'orologio scandirà le ore della realtà, prendo per non cedere a questo questo fragile equilibrio. Nella notte tra la gente prendo respiro per non cedere a questo fragile equilibrio. Giuseppe Cucè che ci propone Fragile Equilibrio. E devo dire che è bravissimo sia nella voce sia nel suonare, perché varia dalla musica pop alla musica jazz e ha fatto di tutto per apprezzarsi, ma soprattutto con il suo album, cos'era, La Mela e il Serpente, è riuscito a piazzare anche nelle classifiche indie appunto la sua musica. Devo dire che è un personaggio raffinato da ascoltare con attenzione. E devo dire che anche i precedenti singoli di Estate Non Si Muore, La Mia Dea, insomma, hanno avuto ampi consensi, e soprattutto dobbiamo dire che ci sono quei personaggi che poi hanno successo all'estero, poi rientrano in Italia e hanno poi il certo riscontro poi in Italia. Cos'è successo anche lui? Dove è più famoso? In Francia che è appunto in Italia. Però noi abbiamo sempre supportato la musica di Giuseppe Cucè, che ci fa immensamente piacere appunto ritrovare con questo nuovo singolo. Si intitola Fragile Equilibrio, in attesa dell'album che uscirà verso settembre. Complimenti veramente a lui, la sua voce è sempre insomma la stessa, quindi ci fa immensamente piacere, insomma non sia, come dire, insomma danneggiata, quindi una sicurezza. E a questo punto cosa abbiamo, regia? Mi son perso? Abbiamo bella lista, mi Asia, aiuti lei? Con Bon Voyage. Piacere Asia, una tipa strana, capelli rosa sul braccio sinistro, il tatu di un koala, vestito attillato, due tacchi allo scollo. Non sono Kardashian ma non mi vergogno di quello che indosso. Italy in ritardo, sguardo insofferente, fuggi mentre parlo, un tsunami di credenze, sembra il medioevo, oh oh, conta se sei maschio, oh. Disco coi dissing e mi sento fuori passo mentre fingo tutto a posto. Che lamentarsi non serve a nulla, tanto le cose stanno così. Tu dici tipo sul trono ed io sarei poco di buono. Giovanissima, dalle idee chiare, Asia Antonietti, in arte solo Asia, ha 17 anni, è praticamente di Fano, se non sbaglio, nella città in cui vive, è cantante, cantautrice, studentessa del liceo economico sociale. Ha già all'attivo, pensi un po', già 5 singoli che praticamente partono dal 2020 fino ad oggi, dove troviamo anche questo nuovo singolo. Sound fresco, energetico, che dire, molto giovanile. Lei praticamente deve successo a soprattutto i social come Spotify, dove ha lanciato TikTok, insomma dove ha lanciato per caso le sue idee, e guardi un po' cosa fa, che scherzi gioca la rete, è diventata famosa questa rete. Io dovrò studiare su sta rete, devo passare più tempo, vero, sì, sulla rete. Lei del resto io mi dedico invece a quest'altra, insomma dall'altra parte del microfono sono più dentro qui, e quindi insomma io ascolto più che altro, insomma, senza guardare video eccetera. Bravo, così ecco. Poi lei e la sua fantomatica redazione musicale. Sì, noi studiamo alla vecchia, esatto. Tra l'altro, ecco, audiovati soprattutto da un libro che è uscito adesso su tutti i cantautori del millennio, sto imparando a memoria, sono arrivato solo alla lettera A. Ah, bene, assicuro molto che, bene. Insomma, tutte le altre col tempo, spero coraggio, fine stagione. Paoletti, cosa viene adesso? Venga, mi dica. Allora, attenzione, viene a trovarci nuovamente un personaggio ben conosciuto dai giovanissimi, perché insomma è amatissimo, sto parlando di La Rua, ci presenta il suo nuovo singolo dal titolo Cinghiali. Per specchiarmi e vedo sempre dei volti diversi, per uno che sembra me stesso, un miliardo di dispersi, e nuoto dentro ai cocktail di sabato sera, e non per questo vivo senza la paura, io che pensavo di avere le ali, poi cammino e prendo in faccia i pali. Qualche volta mi sono trovato in alto, davanti a un panorama di larghe vedute, bello che sembrava una cartolina, ma sono caduto giù senza paracadute. Ho fatto troppe cose in cui non ho creduto, che mi hanno tolto anni che non torneranno. Nel mio cesso c'era scritto fai canestro, volevo fare 100 invece ho fatto un danno. Torno sempre al punto di partenza, io pensavo di avere le ali, tutte le risposte giuste in tasca, ma cammino coi cinghiali. Corro forte ma non basta mai, io non sono nato con le ali, quelli come me nascono cinghiali. A te chi ti ha deluso, a te chi ti ha tradito, come hai girato pagina, riempito il vuoto, colmato quel silenzio che dentro ha boato, come hai fatto a non sentirti più sbagliato? Lo sai che c'è chi piange da riempire un mare, e la paura non li fa più respirare, forse quelli come me nascono cinghiali. Molto particolare questo brano di La Rua, Cinghiali, Paoletti? Allora, per quanto riguarda La Rua, io ho sempre considerato il personaggio Daniele Incicco, che è la voce leader di questo gruppo con cui lui si affianca, e non so mai se appunto i La Rua siano il gruppo oppure il gruppo è a supporto di La Rua, e quindi praticamente è Daniele che appunto si porta a spasso questi strumentisti. Insomma, La Rua, quindi un gruppo, consideriamo come gruppo, in realtà per me è solo Daniele, però insomma vedo dai scritti qui in generale che viene considerata una band, quindi prendiamoli come la band. Dagli uffici stampa poi. Esattamente, comunque diciamo La Rua sono tornati con questo singolo che rompe un po' il silenzio di appunto di qualche tempo fa, però questo nuovo singolo, che è poi autoreferenziale per quanto riguarda Daniele, che poi ha scritto il testo, è stato supervisionato, pensi un po' lei, da chi? Da chi? Da chi può essere? Ma non lo so, non mi faccia questi indovinelli sciocchi. Da qualcuno che abita a Monfalcone? Che proviene da Monfalcone? Da Elisa stessa. No. E devo dire che ha fatto un ottimo lavoro, complimenti insomma a questo singolo. La sua amica Elisa. Esatto, quindi ha fatto un ottimo lavoro a mio avviso, e sicuramente ne sentiremo parlare di questo brano come forse un brano dell'estate. Poi Cinghiali fa un po' strano, vero? Molto, molto. E molto. Poi si sappia che sono previste delle date live per presentare questo singolo, quindi i fans della Rua tenetevi pronti. Molto bene Paoletti, adesso invece chi viene a trovarci? Allora, adesso vi presento Beatrice Lambertini, che ci presenta Siamo un miracolo. Mi guardano come un fiore in primavera, mi sento un po' alieno questo pianeta come in una navicella spaziale a luci blu. Perché non sali a bordo e voli anche tu? Hey, domani è il mio compleanno. Ero così piccola nel palmo di una mano, quella stessa mano che volevo stringere la notte per sentirmi bene. Sai, abbiamo sofferto nell'attesa di un nuovo giorno e non ho paura a dirti che siamo un miracolo. Ho imparato a non mollare mai. Già da così piccola nel palmo di una mano nascondo un sole che brilla in mezzo all'uragano. Non preoccuparti per me, combatterò l'impossibile. Siamo un miracolo. Bolognese Volante, qui giochiamo in casa sua questa volta. Se prima si parlava di Elisa, casa mia, parliamo ora di casa sua, perché questa è Beatrice Lambertini, è praticamente nasce e studia. Lambertini è un cognome tipico bolognese. Infatti nasce, cresce e studia praticamente qui a Bologna, e praticamente giovanissima già si appassiona alla musica, tant'è vero che appunto qui si è iscritta al cinema e al teatro qui a Bologna, e poi da cosa nasce cosa è entrata un po' nel giro, no? Giusto. Pensi un po', nel 2020 è alla 14ª edizione di X Factor Italia con Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e S. Rayton. La sua esibizione, le audizioni è tra le più viste, cliccate e condivise, e diventa proprio un caso mediatico. Poi da lì in poi parte la stessa Easy Pop. Diventa, arriverà sicuramente, diventa testimonia dell'Associazione Italiana Dislessia, del gruppo editoriale La Scuola 6. E quindi complimenti, perché adesso è uscito questo nuovo singolo che devo dire aveva qualcosa di particolare, effettivamente così. Siamo un miracolo, il suo nuovo singolo che sicuramente ci darà soddisfazioni, e anche in anticipazione del nuovo album che sarà pubblicato penso a fine anno. Complimenti vivissimi a Beatrice Lambertini, una boccata di aria fresca. A questo punto abbiamo un graditissimo ritorno anche per un gruppo che è stato acclamato un po' di stagioni fa, favoriti. Ed è anche tra i nostri beniamini sicuramente come gruppo, ha dato tanto alla musica italiana e ancora ne darà. Si chiamano Ex Otago, nuovo singolo La Fine. Ascoltate attentamente, alzate il volume della vostra radiolina. Questa è la fine del mondo, non aspettare un secondo. Cominciano sempre un po' così, Le giornali lo annunciano, le parrucchiere confermano, siamo finiti, fottuti o giù di lì. Il cambiamento climatico è un deserto politico, pure una coda a luglio il panico. Tutti che scappano, tranne noi. piangono, urlano e strillano, tranne noi. Questa è la fine del mondo, non aspettare un secondo. Prendimi quanto mi ami, per dirti quanto mi mancherai. Le trasmissioni ne parlano, gli avvocati confermano, siamo finiti, spacciati o giù di lì. Lo scioglimento dell'Artico, i ministeri si sciolgono pure la pioggia, d'agosto il panico. Tutti che piangono, urlano e strillano, tranne noi. Questa è la fine del mondo, non aspettare un secondo. Per dirmi quanto mi ami, per dirti quanto mi mancherai. Molto bella questa canzone, la fine del mondo, abbreviato alla fine, degli Ex Ottagon. In modo, diciamo, ilare, divertente di decantare la fine appunto di questo mondo. Simpatica, simpatica. Eh sì, praticamente il senso del nostro tempo racchiuso in questo così, in questa selezione, in questo brano, con appunto questo tappeto sonoro molto scanzonato. A tratti mi sembrava di sentire un po' Orzo Way, la sigla di Orzo Way. Beh, no, questi echi anni 80 che mi piacciono moltissimo. E devo dire che peraltro lei sente ovunque, ma non lo so perché. Comunque devo dire, una canzone amara da un certo aspetto, ascoltando il terreno agrodolce, però insomma, perché da una parte canzonata, quindi ci mettono in allerta di stare, insomma, allerta dopo quello che abbiamo visto appunto in quel di Ravenna. Beh, insomma, era già tutti uscita paesi, prima, insomma, che è uscito prima, adesso. Però insomma, questa fine del mondo, beh, insomma, quello che abbiamo visto a Ravenna un poco ci manca, insomma. Sì. Solidarietà anche, insomma, a quelle zone veramente che non se la passano bene. Ok. A questo punto, dopo gli Ex Ottagon, il loro nuovo singolo che ascolteremo di qui in avanti sulle nostre frequenze, cosa abbiamo, regia? Ah, siamo quasi alla fine. È incredibile. È incredibile. Anche questa ventesima puntata, Paoletti. Abbiamo un brano Sophisticated Music. Vieni a trovarci gli Lounge Teams con From My Dreams. Paoletti, presigla. Ah, siamo già arrivati alla fine. È finita. Ringraziamo anche i Lounge Team con questo progetto Lounge Pop Music molto avvolgente che ci è piaciuto molto. Sono capitanati da Andrea e Paolo Amati per questo singolo molto molto bello. Che dire, che è già finita, quindi Franco Paoletti si congeda, vi ringrazio per l'ascolto prestato fin qui, ma vi invita anche ad ascoltare le prossime trasmissioni musicali. Assolutamente, rimanete all'ascolto delle frequenze dei 103.10 di Radio Città Fujiko per la programmazione che prevederà tra poco le corrispondenze, poi C'era una volta l'West di Emania Ficella e via via tutto il prosieguo che potete controllare nel palinsesto nella pagina di www.radiocittafujiko.it. Perfetto, e detto ciò, Franco Paoletti si congeda, vi augura la buona domenica, mi raccomando, ci risentiamo qui puntuali fra 7 giorni. Bye bye anche dal Bolognese Volante. Buona domenica e alla settimana prossima. Ciao. Ciao. Avete ascoltato il C-Pop che vi dà appuntamento a domenica prossima alla stessa ora e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da-da-da.